Ma dove? Ehi, Mario, mi senti? Sì, sì, tutto è chiaro. Ehi, qua sto qua, 706. Sì, un'altra la misurazione, dai. Cosa ti dà? Questo dovrebbe dare 40 watt, 40-50 watt dovrebbe dare. In AM? Sì, in AM, ma da laterale te ne dà 100. Quello che ti ha mandato la foto della switch, della Prostel, della switch, 30 ampere. Ma stai utilizzando la pari di tipo di quella? Certo che sì, ma uno lo usi solo, e l'altro è una storia. Vabbè, già qui ti hanno sentito quello che la signora con le notizie, con il soffresto, perché è tantino, e si può dare la soluzione, comunque com'è la modulazione, va bene? Sì, sì, va bene, c'è un minimo, sì. E beh, per segnare com'è? Sì, aspetta, un soffiante, cioè, se si fa il piano, non è un cazzo, niente. E vabbè, la radio com'è, va bene. La radio va benissimo, sì, fra 9.5, come si muove. Ehi, ok, dai, perfetto, Mario, già ci sentiamo stasera, dai. Mi raccomando, fai buona notte. Cazzo è portante. La portante c'è. La portante ci metto. Mari, la portante ci stanno mettendo. Non riesco, non ti faccio, non lo tu. Ti viene la nisci di luce invece. E Dio ti senta. Confidati, ciao, ciao. Ciao Mari. Vediamo qua se c'è qualcuno sul 23. C'è qualcuno? C'è qualcuno? Pronti, pronti, pronti, pronti. Sore. Allora, CQ23. Buonasera. Buonasera anche a te. Da lontano ti ho sentito poc'anzi chiamare. Qualche dopo non richiamo. Sì. Tanto nemmeno. Beh, io sto guardando la TV. Ecco c'è di sempre a culo. E cosa vuoi fare? Ma quei 5 minuti l'ha già acceso. No, questo è pazzesco, cioè, avevo abbassato il volume e stavo guardando la TV, capito? Ho sentito a te da lontano, ho detto mille mia torre e sono entrato a salutarti, là. Va bene, sono i QRX, si torna. Cos'è Gianmarì? Ho detto sono i QRX. Io sono qua, se chiama qualcuno già sono qua. Entendi, sì. Ti aiuti? Sì, non stavo bene, no? Non ce la facevo, cazzo dolore al naso, Allontanati il microfono dalla bocca. Ma male sono scelto. Passaggi. 1, 2, 3, ma sto uscendo male. Un po' occupato rimane, capito? Siamo vicino, aspetta. Adesso com'è? Adesso va bene. Eravamo troppo vicini, là. Io dovrebbe essere Store. Store, era qua, in corrige. Store, e così ci ha mangiato il gelato, là. Raga, avevo mangiato il gelato. Hai fatto in presa, ma che andò a finire ieri pure? No, c'era poca gente. Era male. Ma non si può dire anche ma se vuoi dire anche la lugaggio. Ah? Non mi senti? Ho capito. Ha detto non mi senti Giovanni. A te, ha volume basso, capito? Ma passa che là, cazzo, è qua, già lo sai, no? Già lo sai. Attenzione, signor Bacchiglio! Bello, buonasera! Certo che andiamo che andiamo. Io cito ci sei. Così, c'ho il filo lungo dentro allora. Andate anda. Quindi adesso funziona bene. Quello devi guardare, cosa c'è di stazionario. Infatti è così, bisogna guardare quelle. Se hai zero di stazionario ti funziona benissimo. Che c'è vero? Ma sta andando bene, andando. Controlla. Ma il microfono perché ci stava funzionando male? Buonasera a tutti, Come va chi? Ciao Tore, buona serata, Vai to. Buonasera, oggi sei Gaimu, sì. Non si è attariato oggi, buonasera comunque. Oh, ho già voluto adorare, lascia perdere, per carità. Subacchi, pari uno di 90 anni, pare, da Minendi, per carità. E io ti sono dolori, questo è il disco, le gambe, faccio tutto bigiato, Gamino. Lo so, altrusi, tutto insieme. Quando passi 40, è vero, quando passi 40 iniziano tutti i dolori, tutte in una volta. Ma chi? Allora che non hai 80 che cosa è? E quando non hai 80 cosa c'è? Sì, 80. Bisogna avere se va arriva 80. Ma noi tiriamo giorno per giorno avanti. Appunto, oggi vi siete, domani non si sa, a cui andare a 80, basta mangiare caro a fiori e patatine, vedi che andiamo sempre a danare. sto usando il 48 Bachi, mi ascoltate bene, sì. Ma se compreso uno avete pavidato in due. Piano. Ci compreso, cosa ha detto Tò? Cavolafiori, andà piano piano. Cavolafiori, andà a cavolafiori, non ne mangio cavolafiori. È venuto Bacchi. Ma la carina, con marino vieni, in che zona? Ah boh, che sangue è andato a finire. Sicuramente siamo in piscina. Per un ibuti. Anche. Sì, è così. Andiamo. Pare. E tu? Ma il 48 sta uscendo bene. Il 48, senti? Sto usando una 48, della vitela. Sta uscendo bene, calmo. È tutto quanto. No, come te dici che si è tagliato. Vabbè, l'altro è la Galaxy. L'altro è tutta una sagosa. Per me stai arrivando benissimo. Quindi, però Bacchi. Bacchi, ma l'altro giorno si è passato con Marino qua davanti al giardino. Non ho capito. E infatti mi hanno dato il messaggio, non c'era no. Infatti gli ho detto di chiamarmi quando passo in questa zona. E questa è la posizione dell'antenna, Bacchi. Andare, vai tu. Fate così. Prossimo anno nascono lettere dall'antenna. No, il bello che adesso è dove c'è l'albero delle luci. Prima era nell'albero della bella. Dove l'hai vista tu adesso? E già andare pure come te va, lascia stare così Bacchi, che già va bene anche adesso, così. E guarda che mi conoscono bene qua, se fanno una cosa del genere le taglio le palle io. Non le corne, no, le palle le taglio. Bacchi non si azzardano, tranquillo che non si azzardano di toccare niente, perché lo sanno. Perché se fanno una cosa del genere, le ne taglio le palle veramente e le faccio anche mangiare. Non ne fanno di queste cose, tranquillo. Sì, perché sono un po' in zona io negativa, non è aperta la mia zona. Perché lui è in zona buona, Bacchi, è una zona buona lui. Ecco cosa è. Io invece qua la zona è un po' coperta. No, oh, ma è la zona che è buona anche, capisci? È la zona che è buona. Invece dice la zona non è tanto buona. Io a Taravai era Matteo Gosa, capisci? E lo so, ma è anche la zona che lui c'è la zona che è buona. Ecco cosa è. E anche con Gio Maria che esce forte, l'hai visto? La zona, dipende dalla zona, se l'hanno chiamato. Bacchi, cosa ci vuoi fare qua? Non lo so. Eppure, cioè con la Mantova era la stessa cosa, quando c'era con la Mantova era la stessa cosa. E appunto, la buona bingità, la buona bingità, la buona bingità, è sempre la stessa cosa. E allora se riuscì, la lascio, quando è coso che faccio tutto diverso. Oggi ne ha giubito una con 8 radiali caricati, questi radiali, e più in punta, anzi no, a metà c'aveva altri radiali, e qua è tribanda. Ma costa quasi di più 100 euro, se c'è buono mosso di coso, invece buono una direttiva, mi pongo una di chissi, tanto costa, se può dire, ma te si brigi, mi vedo chi sa, mi brigi. A quanto fai uno e l'altro. No, e coso uso i, come si chiama, due cavi in uno e metto l'accordatore è automatico. Infatti, poi ci metto un dipolo e un'altra antenna che fa la decametrica. E quelle in verticale già vanno bene, ma per quello non le metto le cose, le direttive. Sì, certo, ma è no, che quando gira vento di mia pagliosa. No, che quando gira vento si faccia un rotore pure. Se non molto no, anche ti faccia la roba e ti faccia il cavo. Anche quello. Anche quello, eh. Ehi, adesso vedo quando esce. Quando esce promosso. Vediamolo così. E infatti è così. È così. E andate. Signor Bacchi, Carusa, io devo dire che ha fatto le ore lunghe, ha fatto, ma non che non è uscito a ore 4. Quindi, ha fatto così. Ah, io ti dici bene, Emanuele, allontanato, sì. Sì, è così, signor Bacchi. È così. Andiamo bene, andiamo. Allora sai, signor Bacchi, che stasera sentivo i fulmini qua vicino. Sicuramente dalla parte di Bonorva, sì, quelle parti lì è arrivata. Poi i nomi erano infatti, signor Bacchi, era quasi vicino, ho visto che si è allontanata. Eh sì, avevamo preso i turisti. Non vedi di là? Andiamo bene, andiamo. Cos'è, signor Bacchi? Sì, io aspetto che finisca il telegiornale della Sardegna e poi mi mando pure io a mangiare. No, mette sempre, mette ogni. Signor Bacchi, non sei uscito va? Non sei uscito? Buddha! Nonno! È uscita la prima parola a voi in Udda. Adesso sì. Appena grecchiante, ma già sei uscito. Ah, paesso è. Andemmo, andemmo. Sicuramente era ancora dormito. Girate la manopola, girate la manopola. La manopola. La manopola, dovremmo girare. Girate la manopola, buonasera. Buonasera, signor Fra. Come si va, come si va? Da un fratto all'altro. Buonasera a tutti, non so chi ci sia. Ciao Bacchisia, mi sa. Marino non c'è. A me non mi sente che io esco basso. Come ti vai? Non è che sto scendo basso, sto scendo con meno di 5 watt. Non si arriva in dire. 2 watt forse, buh. Attenzione Marino, se ci sei batti qualche colpo, sennò ti rimani gallo così. Ha detto che no, è dormito. Otto. Ehi, Fra. Guarda questo passaggio, 1, 2, 3. È buono, è buono come radio, è segnale buono. Guarda adesso. Vedi un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il segnale è sempre lo stesso, segnale 9 e radio 5. Perché sono a casa, forse siamo troppo vicini, capito? Sarà così. Sarà così. Vabbè, dai ragazzi, mi sacciamenti. Ci sentiamo domani. Ciao Bacchisio, ciao Franco. Ci sentiamo a domani, ok? Ciao a tutti. Va bene, dai, riprendo io. Ciao Bacchisio, ciao Autore, ce la riascolterei prossimine.